No, la roba lì, i giornali, poi. A te che quello ha fatto quello smontato, là, il portatile, il bipanda dalla macchina, scatto, l'ho cambiato macchina, non mi ricordo più dove ho messo la radicchia, se fosse quello non ricordarsi. Non ti ricordi mai qua, ma come ha disegnato. Stava lasciando la batteria. Quanto era ormai 10 anni che non entra questo qua? Era sparito proprio, ma dopo meglio niente, non fa prima meglio niente. Allora, ma quando mi ricordo verso quella radio di banda per massima, quel tipo davvero, a te a me lo sentirei, io già mi ricordo tutto quello che oggi ho avuto e riesco a trovare, per il momento il cervello non risponde. Capisci che la devo uscire, è ancora più critica. È nato quarto e c'è un ragazzo giustamente, no? Allora, infatti è più forte la moglie, questa moglie mi ha fatto un coso, già che stare a posto di Vittorio Emanuele prima metterci la moglie. Questo è incredibile. Vabbè. Già non saprò mai come ha fatto in tanti anni a portare una croce del genere, perché quella è una croce. Per carità. Allora, qui è robusto perché non ha fatto più niente, non fa niente, ma dice, la bicicletta ce l'ho in garage, ma in garage c'è in garage, ce lo so che c'era la bicicletta, ma mi ha usarla però, cazzo vale a dire, è come quello che ci sono le radio ma non le usi, allora vendite. Ah, perché ti ha detto pure che c'è la radio? No, leggendo, lui mi ha detto, c'ho le biciclette in garage, vabbè, io gli ho detto, ma le biciclette bisogna usarle, capito? È come quando lo dice che c'è la radio, no? Se tu le radio ce le hai e non le usi, cosa cazzo ce le hai a fare? Secondo me la radio della fondista le fa per i soldi, quello. Perché tu pensi che c'è qualche radio? Come non c'è niente, sta prendendo tutto. Quello, su quelle cose già lo sai com'è, no? Se può fare lo spicciolo, anche se uno spicciolo lo fa. Ok, guarda com'è la modulazione, Gianfranco, ti sei più chiara rispetto a prima. È molto buona, va bene. Molto buona. Io ti sento molto bene. Ma tu ovviamente si sente lì, non si sei mosso, no? Dove l'ho conosciuto io. Sì, sono sempre qua. Capito. No, guarda, la modulazione è buona, che la tua FM ha cambiato totalmente e non sento nessun rumore, ma se mette noi è una cosa impressionante. Vabbè, contatevi che ascolti bene FM. Beh sì, no, l'importante è anche ascoltare l'AM, ma l'AM è molto più soggetta a quel tipo di disturbi, capito? Ma ti dà segnale questo disturbo o è impulsivo? Senti, vedi che lo smetta a stare oppure è proprio una specie di scarica? No, sono scariche sono, capito? Arrivo anche a 7, 8, 9, ma ogni volta lo fa solo la sera, la mattina così è solo coprato, nulla, solo alcune volte la sera, e oggi non di quelle. Se non c'è il bruciatore, sempre funziona. Sì, a uno? Il bruciatore del riscaldamento. Potrebbe anche essere, guardo adesso, vedo, tanto distrutto la centrale 3, adesso vedo, domani o quando mi capita che posso accendere, accendo dalle 3 meno un quarto, poi vediamo se quando accende il bruciatore fa questa roba qua. Potrebbe essere qualche contestatore dell'accensione che ha problemi. E così. Vabbè, quindi novità nessuna, sto sempre girando, sempre in quelle zone, sicuramente, no? Ma quale zone? Ma a livello di divertimento, sì, c'era anche stamattina giù. Fatto già portavo, poi a vedere più o meno quella cosa ridicola della balena, che fa scalofagnori del mondo, che è incredibile, cazzo. Da queste cose ti accorgi che una nazione ha di poco convincevole. Per carità, ma cioè, prendiamo un pietoso quello, ma proprio di quelli grandi, però più che un volo direi lo spendiamo proprio un bel volo. Allora, sta arrivando mio amico la Germania, ma di cazzo blu, ma per la ciudad, e allora c'è vero, c'è tutto vero, cazzo, a lui c'è ascolto la vita con una cittadina sul mare, verso a nord, là, verso il Mar Baltico in Germania. Cazzo, appena lì c'è una cosa del genere, poi la ragazza mi batte, l'ho chiamato due rivolti altrui dal porto, l'hanno imbragata e l'hanno ancorata in una insenatura. Dove c'erano circa 2 metri di acqua, hanno aspettato cazzo che i pesci c'erano tutta mangiata e poi hanno recuperato lo scheletro integro, cazzo io vi do 3 mesi cazzo, e ci siamo avvicinati e fate ridere. Ma poi lo so preparato tutto, quello di è nato al largo, e al largo lì dalla Senara ci sono anche pesce e cani, tempo 2 giorni non ci rimane più niente, anche loro si mangiano qui, quindi sono quelle cose veramente fatte per guadagnare, perché le hanno chiesto 30.000 euro, cioè per fare qualcosa, ma quelli sono fuori di testa veramente, guarda, solo da noi succedono queste cose. No, 30.000 è la seconda offerta, la prima offerta, il primo preventivo erano 100.000, che ha messo il sindaco di sotto sul tavolo, 100.000 euro, capito? Ma è un manico, ma fallo ridere, proprio il titolo di cena, cazzo poi 18-20, come non so se l'hai vista, ma non ho fatto due di cascotta, l'ho fatto vedere alle 8:30 della Sessia, quel programma di Giretti, proprio hanno fatto la stessa cosa, 18-20, per dare l'autorizzazione, incredibile, 18-20, mancava solo Gesù Cristo. E probabilmente quei lui hanno visto una cosa già e scappato, perché ha detto questi sono degli imbecilli, proprio veramente. È una cosa talmente ghiotta che giusto gli italiani li possono sopportare questi personaggi, guarda. Giusto gli italiani, perché in qualunque parte del mondo civilizzato si prenderebbero a calci nel sedere, no? Non potrebbero nemmeno a fare certe proposte scene, guarda. Ma comunque, ci viene a campare, che adesso la prossima volta c'è un'altra tornata, vediamo quanti imbecilli riescono a passare. Allora, tanto che la maggior parte sono i stessi, è la stessa merda, capito? Tranne il Movimento 5 Stelle, poi tutti gli altri sono tutta gente da 20 anni a 30 anni, Renzi che Renzi, tutto il suo gruppo, sono 20 anni che fanno politica di come si chiama, in Toscana, a me le signa nuove, Renzi ha 40 anni, ma è 20 anni che viene amministrazione comunale, provinciale, capito? Io se magari ci fosse il nuce, perché quanti avrebbe messo al muro di questa gente, adesso sarebbe divertito, invece nulla, proprio allucinante, ma fanno ridere, maledetti, cazzo. Fabri, lasciamo perdere. Sono il loro passatempo a criticare quei sindaci lì che sono sia a Torino che a Roma, però malassorte se sono dimenticati di chi ha combinato i disastri, capito? Pretendono che gli altri abbiano la bacchetta magica, mentre loro ci hanno mangiato a 4 ganasce. Allucinante veramente, sono cose dei miserabili. Ma cosa puoi dire? Come si dice, sempre proprio sempre mala e sempre l'ovvia soprattutto. Allora poi chi tu resi criticando quelle due sindache lì e lui cazzo passando le formazioni segrete del governo a dei benedetti, cioè, solo per quello è un'azione ridicola, quello lì avevano fatto correre sull'acqua, capito? E poi tutti i risparmiatori, cazzo, hanno preso tutti i risparmiatori, chi la liquidazione, chi risparmia una vita, e io passavo a cazzo di passavo a fare le formazioni agli amici suoi, capito? Incredibile. Un personaggio del genere ora solo per vergognarsi. Eppure vedi attaccare tutti, Roma, cazzo, una città con 14 miliardi di debiti è fallita, tutta fallita, e 50 anni di malgoverno, capito? Ma così viene qualcuno all'altro, ma che ha posto? Ma è tutto, e il problema per Roma sono i romani, il 70% dei romani vorrebbero vedere la sede elettrica, sono sporca, sono differenziata, proprio ridicoli, cosa cazzo può fare quella lì, quando poi c'è tutta la popolazione che non fa il bene della propria città. Ma soprattutto c'è il problema, c'è sicuramente un problema tipico che è quello della dirigenza, capito? Anche se tu sei sindaco dentro di lì, se ne trovi quelli della vecchia guardia che non vogliono cambiare, non li piace il cambiamento, no? E quindi c'è da avere con mafiosi, con gente corrotta che è pronta a metterti da fare tra le ruote e qualcosa che cosa fai, quindi è un macello, veramente c'è proprio un macello di quelli brutti da risolvere. Lì dovrebbero alterare tutto, mandare tutti a casa, tutti i dirigenti e rimetterci gente capace. Allora, cosa è accaduto a Clantina, faccio un anno e mezzo, ma cosa vuoi fare? Piano piano, io cioè, ci vuole piano piano. Guarda, io ero anni che non votavo nessuno, capito? Io da quando c'ero 5 Stelle sono iscritto al movimento. Voi tu sentite questa sinistra, io arrivo e sai qua questa gente. Io voterò il meno peggio, sicuramente nel destra e sinistra. Giustamente andrò a votare, però voterò il meno peggio. Questa è la realtà, capito? Roma è Roma, ci vorrebbe caso gli arabi si avrebbero voluti per mettere a posto a Roma, ma gli arabi con le loro leggi però, capito? Appena butti un pezzo di carta per terra, caso ti faccio frustare, vai a Dubai o nel paese loro a vedere se vedi questa modesta, perché l'educazione c'è, capito? Invece c'è qua nulla, e i primi che criticano l'operato del comune se ci sono quelli che sporcano. E quelli che rubano, perché loro vorrebbero continuare a fare il cazzo di loro, capisci? È un classico, che cosa ti ho visto? E quando ci sono andati i mafiosi lì che volevano fare le cose, sono spaventati, hanno detto cazzo, qua non ci possiamo venire. È già tutto pieno di gente peggio di noi. Capito, quindi io rispetto dal movimento civile, da iscritto al movimento, giustamente io discritico, hanno fatto degli errori all'inizio, giustamente sta rientrando nella fossa dei leoni, di dentro tutti quei nati sul Parlamento, e quindi loro hanno fatto degli errori, li hanno fatti all'inizio, li continuano a fare, però io rispetto, se la mettiamo sul punto del controllo per un peso, finché loro non faranno affatti truccati, finché non passeranno tutti informazioni e soldi agli amici degli amici, io voto loro, capito? Perché a votare andrò sicuramente, non farò il gioco loro, che voi dovete non ci fare, capito? Però ti ripeto, per mettere in rapporto quelle città, non solo quelle, ma tutte le città, perché l'Italia tecnicamente è un'altra fallita, sono quel diritto pubblico che c'ha, un'altra che non cresce, non fa nulla, dovete anche dove andare. Quello mi consenta che vuole dare 1.000 euro a tutti genericamente, quasi non aveva nulla fa. Prima era uscito, devo ricordare che andavamo tutti una volta al giorno al ristorante. Adesso vuole regalare 1.000 euro a tutti. Così siamo quelli che dovinati. Tempo 6 mesi non pagano più neanche le pensioni questi qua. Perché fanno proprio il totale fallimento. Ma è una manica veramente di pezzi di già insomma mai capito, no? Sai cosa è il problema? A quello di me, allora io avevo subito. Sì, siamo in FM. Anch'io sono in FM. Ah, mi senti? Già ti sento. Andare. Come stai oggi? Così. Sono niente, c'è solo un abbassamento caro oggi. E vuol dire che c'è qualcuno che vuole che non parli. Così. Però sto facendo una chiacchierata con Fabrizio, non so se lo sento, ma penso di sì. Sta provando un apparecchio. esatto. Ciao, sentito Fabri. Ciao, Fabri. Ciao, però beh, ho pure un ascolto, cazzo, ne ascolta. Diciamo che se già mi ascolti, però c'è la voce in massa. Venga, io. No, io. Vabbè, tu che sei malato, da quando sei nato. Malato sarai tu. No, dai, no, perché ti ascolto. Stavo parlando dei tuoi amici del governo, capito? Mamma mia, un'altra cosa non fa dolente. Allora, capito Gianfranco, funziona così. La nazione, dice, penso quello lì, no? E tu, cazzo, ci sei 20 anni, hai utilizzato la politica, d'accordo, con la sinistra per mettere a posto tutti quei problemi con la giustizia e mettere a sicuro la film. Capito, tutti i casini ha fatto, tutte le leggi che ha messo il personale incredibile. In una sola insegna, quell'uomo non si è mai esistito. Capito, Gianfra? Cazzo, rubi la nipote di Mumbai, dai, ma come cazzo si può votare un personaggio del genere, cazzo? Che fa votare un Parlamento della Repubblica, fa votare il falso a tutti i suoi seguaci, cazzo, dichiarando che rubi la nipote di Mumbai, dai. Confessalo qua, lo sarebbe il minimo. Quindi ancora sarebbe diciamo peccato veniale che potrebbero fare tutti, però la cosa grave è che è un fatto curioso, sembra così, sembra anche una grande capacità, per carità, anche di trascinatore, però se anche di poco qualcosa oramai mezzo andato l'uomo, porta la rovina, si distrugge la nazione, quindi bisogna stare attenti, sta illudendo le persone senza sapere qual è la verità, che siamo in male, l'altro, quell'altro imbecille si dice sta andando tutti bene, forse la lavoramento, non si mantò, c'è una gente che era disoccupata, la cosa sempre disoccupata. Cosa che era precaria, sempre precaria, quindi vuole capire un attimino dopo questo miracolo. Il problema è che loro hanno fatto tutto una mucchiata, no? Capito, si parla di lavori, cazzo, 10 giorni, magari, tipo l'estate, tutti quelli sì, diciamo, li ricordano come persone in attivo, capito? Attive, sono persone attive, quindi mettono 2 ore, 3 ore, una settimana, loro mettono insieme, loro li considerano come occupati, ma loro una settimana, capito? In mezzo a quel numero di coloro, c'è più della metà sono di quelli a ore, capito? Sono posti fissi, come dice, e che li mettono fissi come i cogli al muro, avanti la tariffa. Si era voluto agire reati gli anni fatti di alto tradimento, vorrebbero messi tutti al muro o arrestati, che sono tutti abusivi. No, arrestati no, toccavali a mangiare, capito? Fucilati volevano. Oppure, se proprio li vuoi bene, ci avrebbe voluto, cazzo, una settimana di più benito, insomma li avrebbe messi tutti al muro. Sì, tutti alle racchesi. Allora, cazzo, tutti cazzo, la propria data di cazzo imbecille, l'ebreo di Fiano, la legge, la poesia di fascismo, c'è già una legge, no, più severa, magari si può dire che se ci fosse stato lui non sarebbe mai, non avrebbe, non sarebbe mai seduto al Parlamento. Per carità, allora, questa è la realtà. Ha seguito, cazzo, passando le informazioni segrete, cazzo, a De Beri, no? Siamo che è quello che ha comprato al sicuro lui con l'altro coglione di coso, di Serra, il suo amico finanziere. Sarà già capito che quello è un figlio di papà. Quello è un figlio di papà, non sa cosa vuol dire lavorare, lui che dice agli altri, no? Che non hanno esperienza e che non sanno da vuol dire lavorare. Tra lui e l'altro la figlia è l'amichetta, per carità, guarda. Quella lì non molla, non so ne guarda, con tutti i casini che ha fatto. Ma e allora, la riforma della Costituzione. Allora, la Costituzione, alcune cose vogliono cambiare giustamente. vuole fare la riforma che cambia 57 articoli della Costituzione, due buoni e la 55 a favore di tutti i fuochi, e che poi do la democrazia e soprattutto il volere del popolo. E soprattutto quella lì con un padre così in banca, mentre cazzo il padre e gli amici si mangiavano le banche, cazzo, si mangiavano i risparmi di poveri cristi, capito? Per carità, a me erano pensati perché farebbero presi, cazzo, e messi a testa in giù con la candela a due centimetri dalla fronte. No, io se sono già prendo in cuore, vai. Questi dovrebbero essere di sinistra, poi no? Di sinistra che tutti i ricchi sfondati, che non li puoi più, capito? Fa fuori l'operaio. Oh. Ah, dice, l'articolo 18, quello mica è di sinistra, ha fatto tutto il cosiddetto, ha fatto l'articolo 18, ha fatto un lavoro più precario, capito? Questa è la realtà. Berlinguer si avrebbe mangiato vivo a quegli imbecilli. Quelli sono il suo gruppo della sua cerchia toscana, che volevano mangiarsi l'Italia, no? Capito? Però alla fine sono personaggi essi, capito? Perché bene in questo li mangia, si vede per tutti qua, avanti a Natale. Scappa. Cosa si dice? Tanto, invece di cominci se non vendi, se non vendi la cosa la unità monetaria, la sovranità del popolo, non abbiamo più nulla. Questi vorrebbero avvicinarsi veramente. E allora poi ti dicono, tu senti parlando, questi qua, no, l'Europa è stata una cosa grandiosa, adesso è una puttanata. L'Europa è stata la cosa più, come ti posso dire, il disastro più grande dopo la guerra, capito? Dopo la guerra è forse l'Europa, e con l'euro ha indebolito la povera gente, i poveri stipendiati, togliendogli almeno il 50% del potere d'acquisto, capito? Quindi è visto dalla povera gente, non è stato un bene, un cazzo. Ci hanno fatto a pezzi, ci hanno preso più del 50% dei rischi della tasse, capito? Raddoppiato i prezzi e i dipendi dei prezzi, capito? Cazzo, prima con 100.000 euro, prima un carrello, cazzo, e le buste, ma va con 52 euro, cazzo, manco 4 gol, con pareggi. Allora lì, come grandiosa, sì, è stata grandiosa l'Europa, il sistema europeo, l'euro, è stato grandioso per i poteri forti, per i ricchi, non per la povera gente, per i normali lavoratori. Per i lavoratori gli hanno preso il 50% del potere d'acquisto, li hanno fatti più poveri, capito? Io ce lo so, se l'hanno preso giusto. E la Costituzione ci impedisce di andarsene dall'Europa pure, non solo l'altro. Perché se noi riuscivamo a andarsene, non ci succedeva nulla. Infatti, chi l'ha vista bene con quei paesi dell'est, la Polonia non c'ha l'euro, c'ha la sua moneta, lo zloty, e loro sono stati più furbi di noi, perché c'erano in Costituzione la loro moneta, capito? Quindi per avere la moneta euro dovrebbero fare un referendum, e il 90%, come dicono le statistiche e i loro sondaggi, il 90% dei polacchi non vorrebbero mai la moneta euro, capito? Loro hanno potuto tutti. Ma noi ce lo impedisce la Costituzione, Fabri. Non possiamo fare nulla. È un caso di guarda. Sani, imbrigliato, domani e peli. Allora, capito, c'è la Polonia, c'è la 3 o 4 nazioni, c'è Cosovacca, mi sembra, no? No, c'è la Repubblica, la Slovacchia ce l'ha, l'euro, la Repubblica Ceca, mi sembra, non ce l'ha, l'Austria, 3 o 4 sono, 5, avanti, già fra. Diciamo, l'euro non sembra anche bene. Quello che ha sbagliato parecchie cose è stato Mortadella, che nei campi ha fatto un casino che qua come ne bastava. Allora, la massa che viene scenda, che non fa più un'ora. Quello che non fa più di noi, ma c'è tutti i nomi assieme, cos'è? Thank you. milioni di euro a rifiuti. Non hai capito, devo pagare un caso. Allora, il problema è quella gente lì, tutti questi qua, so che i soldi, pensioni da paura, tutti i familiari sono sistemati così buoni. Cosa cazzo che ne frega l'altra della povera gente? Quasi noi siamo col popolo, magari. Poi ho bisogno di un quarto, ma gli stessi soldi soprattutto. Ma Gianfranco che ce li ha i soldi, Gianfranco più o meno come nove. Un po' di più anche. Capito, non è che le persone tutti i campanetto là, no? Quelli che hanno fatto i casini, i disastri, no? Sono sempre gli stessi, zitto. Ma come Alfano se n'è andato? Ma Alfano è andato via perché sapeva che non sarebbe mai entrato a questo giro. E allora ha dichiarato che non si sarebbe più candidato. Perché sapeva che pigliava colpi, era arrivata la sua fine. Insomma, fase rabbini di vini, grandissimi traditori. Allora, vedi là, con la fila della casa di Monte Carlo, tutti i favori, con i decreti per il gioco d'azzardo, no? Per le macchinette. E tanto si è andato a finito con 7.500 euro di pensione al mese. Problema, tutti quelli che ne ha rubato da voi. Io avrei un generale di carabinieri di funzione, il generale Pappalardo, sai quando te lo dico, stare facendo poco di credo, solo che non può fare nulla. Sì, lo so, non può farlo perché sono pochi, cosa può fare? Purtroppo quelli tutti quanti, quelli che hanno le stesse persone che hanno fatto i casini, vogliono sistemare, i casini che si 40 anni in giri, è portato il popolo alla povertà. Cazzo per gli anziani che aspettano il vetro dei mercatini per raccogliere la verdura e le mele toccate. E qui c'è ancora questo cazzo di soli, per carità. E quindi bisogna accogliere, e cosa vuoi accogliere? Cazzo se non sei capace di attrarre bene nel stesso vuoi accogliere il mondo. Già fare qui. Così è. Per carità, lo siamo in malinconia, sì. Che stare da mettere fuori, eppure a me è capitato proprio un giorno che ero fare una ricetta, ero nell'ambulatorio che è lì vicino a te, e ho sempre questo vecchio, ovviamente non puoi rispondere perché sennò finisce in vista, che diceva era un altro signore, diceva io voto Berlusconi perché Berlusconi mi ha aumentato la pensione, mi aumenta la pensione e ci dà 1.000 euro adesso a tutti. Ha detto sì, 1.000 euro per una settimana e poi l'altra settimana mi richiamano in tutto, anche la casa. Un attimo di tecnica, allora tre cazzate, capito? Poi ci mettiamo 200 euro in più e poi ti aumentano la luce, il gas, la benzina e tutto quello che consumi, e altro che 200 nel cupo, 400, due dopo di cosa stiamo là. Avanti, break, buonasera Gianni. Allora, buonasera, sempre lamentando, lasciatemi rubare i pulizi. E allora, cosa mi raccontate a parte queste cose che ci stanno già e non possiamo fare un cavolo, o facciamo questa guerra civile quello, no, non ci riusciamo a riuscire fuori a questa cosa. In certi paesi hanno già concluso con queste cose, hanno già risolto tutto, fanno guerra civile, vanno a mettere il mare, vanno a mettere quello, vanno a mettere l'altro. Allora, guarda che in Italia c'è solo un modo per far fare la rivoluzione agli italiani. Chiudere tutti gli stadi di calcio, hai capito? Chiudere il calcio, tutti gli stadi, tutti gli stadi di cose così. E vedrai che l'italiano scende in piazza, capito? Solo se tu togli il calcio, capito? Altrimenti non è fatto il calcio, cosa a dire l'America, sta lamentando, bla bla bla bla, per poi lo farò un calcio. Ma in definitiva noi non è che possiamo fare tantissimo, quello che decidono loro, i politici, parlamentari, e noi dobbiamo sottostare alle loro cagate che fanno. Purtroppo è così. scusa, no, perché noi ci affacciamo come gli albanesi, come i rumeni, come tutti i paesi dell'est, Germania, usiamo FM, capito? Solo gli handicappati italiani sono la M. No, volevo dire una cosa a Gianni, buonasera, innanzitutto. Gianni, se tu dici qualche cosa a un tedesco, a un inglese, a un francese, eccetera, eccetera, tirino in faccia, perché questi signori, noi siamo saliti, a parte questi ultimi, alla sola lì a governare, ce li hanno mandati gli italiani. Se gli italiani non capiscono che andare a votare è nel loro interesse, perché adesso ti dicono a votare qua, non votare quell'altro, non sparisce più, capito? Se votate una enorme maggioranza silenziosa che ci abbiamo, mi metterebbe veramente a correre molte persone, ma non ci fanno perché sono demotivati, capito? Però il voto è una cosa preziosa, in cui c'è gente, molta gente è morta anche per avere questo diritto. Lo so, purtroppo molta gente non è nemmeno stata perché ci vede disoccupata, ci vede certa scarsa, e allora non sono motivati ad andare. Purtroppo loro lo fanno come ritica, ma sbagliano, perché tutti dicono qualsiasi partito salga, saremo sempre così, sempre uno quello che sa le mangia e basta. Si vedono la torta davanti, si vede il petto rosso sempre i grossi partiti e poi si apre i rispetti piccoli e mangiano tutti e non ci rimuovono quasi. Anche quello è sbagliato, perché i politici, come in tutte le famiglie, la gente onesta c'è sempre, solo che quella gente non fa esatto, il male si vede molto di più dal bene. E quindi è una questione di scelte, capito? Di scegliere le persone giuste e metterle nei posti giusti, non questi quattro banditi che sono sempre lì in televisione. Poi ci sarà Berlusconi lì a domenica 5, a Silvio Berlusconi. E ha parlato proprio delle pensioni, che non metteranno il libro, che praticamente faranno so che cosa. Quindi a parole sono bravi, poi ti aumentano le pensioni, ti aumentano la benzina, ti aumentano questo, ti aumentano l'altro, se quello che ti dà di più te lo conosci più. Solo che la cassa delle pensioni a 1000 euro è una puttanata che stai dicendo, perché tu se riesci a fare una propaganda del genere devi dire diamo 1000 euro di pensione a tutti quelli che non hanno versato un cazzo di contributi, no? Quelli che hanno versato, io mettiamo 400-500 euro in più, tu non puoi portare pensioni di gente che non ha mai votato, che non ha mai versato una lira, a magari a gente che ha versato magari 40 anni o 38 anni di contributi e piglia 1000-1050 euro. Capita puttana, allora il cazzo di nessuno ne paga più di contributi, se mi dà lo stesso, lui deve dire, io non mi dico a chi non ha pensato un cazzo, però ne devo avere anche 500 in più a chi ha pensato i contributi, o no? E addirittura gente che non ha pensato un cazzo, che c'è la stessa pensione di uno che ha pensato 35 o 40 anni, o 40 anni, cioè non è una puttana pensa di genio. E anziana non ha parlato di lasciare i contributi, ha parlato di gente anziana che prende pensioni che adesso sono state dimezzate con la storia del libro e che porterà il libro per avere, diciamo, i soldi per campare. È una puttana lo stesso, non lasciare tu, non puoi differenziare come fai tu gli anziani, lui fa gli anziani, no, come dici tu, e portami il libro. E quelli che hanno versato 38 quanti anni contributi, magari fino a 1050 o 1100, cazzo con le due rischi ci sono, quello non ha versato un cazzo e si trova più o meno la pensione come la tua, ma si sente. Se tu decidi di dare 1000 euro ai poveri, giustamente per far vivere bene, però devi dare 500 in più a chi ha già versato i contributi, da 1000 a 1500, se no è una puttana per 600, perché allora non verseranno più nessuno i contributi, e cazzo verso i contributi per poi avere una pensione uguale a quello che non ha versato un cazzo. Anche quello è vero, purtroppo però le giustizie ci sono tutte le parti. E rimango, dice, scusate se sono andato a concludere, anche se ho la parecchia, il sito genere sono andato a favore, lo senti con cui mi prende qua, strano, ho guardato anche come si mi prende la bambina. Se siamo a fare facilità Martarino, non vorrei sbagliarmi. Martarino, buonasera, sì. Sì, da chi sono? Solo che c'è la voce bassa. Sì, è da decenco. Ancora apprezzata, signor Martarino. Oh, via, fine di mira. E per voi, vuoi fare? Lei sì. A me mi è rimasta questa storia della voce. E c'è la voce bassa, ecco. Non so altro. Lazzarino, oh, l'hai trovata la supposta, quella di carne? Me la volevano fare, ma non ci sono venuti a darmela. Io la volevo della grossa, in modo che passava subito questo coso della gola. Perché io quando ho mal di gola faccio sempre questa operazione qua, mi hai capito? Non ti costa niente, non devi andare in farmacia, alla fine è al medico. Ho visto che funziona. Che cosa, che rossa? State facendo regolare una bandoletta. Se vuoi, allora, questo tipo... Mamma... Una fine! Io ho fatto un regolo. Per due, tre volte, così. Alla fine, quando la cosa dice, non so, non dico cosa voce di me, non dico cosa chiede, una cosa non faccio per tutti gli altri. Non so, che si può fare. Si può andare a Montatori o fare usare un coso di cuore e te lo devi mettere lì. Sembra che la voce ci dice, si fa così, va a fare. E fa una maniera di... A me così due, tre volte. Andiamo qua, a fare. Guarda che questo poi va bene per tu, è la medicina che va bene per tu, mal di gola, mal di piede, se vai in bicicletta e c'hai tutte le tutte stanche, capito? Questa è la medicina che va bene per tutto. No, la bicicletta ho già l'accessorio di riserva, metto gli stellini e scappo. Ah, come cosa? Come cassi con cucchiera? L'ho fatto il film Fantuzzi. Esatto, la battagliera. Oh, yeah. Gli abbiamo messo in mani buone, yeah. Così è Calassarino, se tutto va bene siamo arruinati. Ok, è così, è stato di Francano, mi leva tu, di cazzo mi leva tu. Ah, se è maco, è una cazzata che ha detto, ma una cazzata grande, perché poi c'è una giustizia, sapete? È giusto aiutare chi sta male, però allo stesso tempo devi mettere la bilancia allo stesso regime, allo stesso peso. Quello beccherà 1.000 euro, ma la gente non ha mai versato un cazzo in vita sua. Tu pensa, c'è un amico di... lo zio di un mio amico, lui non ha mai versato, non ha mai lavorato, è nato ricco con i soldi, finché si è mangiato tutto. È arrivato in alto la pensione di vecchiaia via, 460 euro per il genere, non ha mai versato un centesimo allo Stato. Quindi se tu gli apporti a 1.000 euro a questo si troverà una pensione, se dovrebbe versare un cazzo, con magari 50 o 100 euro in meno di chi ha versato 35-40 anni contributo. E ti pare che ci sia una cosa giusta? Compadre, ma c'è una cosa che gli italiani non sanno, e che nessuno le dice, ma non lo sanno proprio, non lo sanno di nessuno. Allora, cazzo, tu farai il gabbo. Ma lo sai quanto andrà a prendere chi attualmente prende 1.200-1.250 euro di pensione? Dunque, fatti il conteggio contributivo, e parlo del contributivo, se riesci a prendere 800 euro è fortunato, ma anche di meno. Sì, sono pensioni povere, ma molto povere. Se invece di migliorare la ricchezza, sarei meglio. stai peggio, questa è la realtà. Ah, scusa, mi sono sbagliato, perché le 800 euro sono per quello visto, per quello dopo una contribuzione di 35 anni, se ne scende a 700-650 euro dopo 35 anni col contributivo. Hai capito quanto conviene lavorare? Allora, e poi c'è la più bella di anziani che aspetta dei segni, non è lì, aspettavo di fare il cassino per raccattare tutta la roba che ci hanno buttato. E quando io vuole dare 1000 euro a tutti, c'è la roba? Ma vorrei togliere subito, ci vuole spiegare. E fatti la tua cazzata, lui non è un cazzo, lui gli interessa, riuscire a fregare gli italiani, riuscire ad avere una maggioranza, per cui continua a fare i cazzi suoi e proteggere le sue aziende. Ma a me è stato un cazzo a quelli italiani, ha potuto come gli attacchi a me, io fino agli anni, lui è stato io portato, non me ne vergogno. Credevo, però poi mi sono reso conto che lui ha usato la politica per i cazzi suoi, per diventare sempre più ricco, per avere le sue aziende perfettamente tranquille, sicuro e protette. Una cazzo ne ha per lui dei poveracci. C'è stato 25 anni, il ragazzo non ha mai fatto un cazzo, ha fatto riccio. Questa è la realtà. Avanti Gianni, avanti Natale. Perché per un momento mi devo lasciare, mi sono solare. Ciao, ci sentiamo un altro momento. Scusate, ma non succede. Ciao Gianni. Ciao Gianni, stai bene, avanti Fra. Ciao Gianni, ci sentiamo. Beh, comunque sono ingrato Fabri, perché lui ti ha regalato quei personaggi tipo Verdini, tipo Alfano, tra l'altro l'ho pure già visto. Ti ha regalato tutta quella gente e tu non sei riconoscente adesso, dico le grazie. Cazzerella da fucilarlo, questa è la realtà, vedi adesso la storia delle banche, di tutti i casini. Lui, quando venne interrogato con la commissione sulle banche, ha detto che non si ricordava di passaggi, basta l'anziano, e ha preso più il culo a tutti quanti, e ha mangiato risparmiare la povera gente. Poi è stato un governo con i coglioni, a quello avrebbe preso sul collarino, gli avrebbe sequestrato tutti i beni che ha passato i figli e i parenti, capito? Tutti quanti, come ha fatto Gheddafi in caso con gli italiani, e ha sequestrato tutti i beni in territorio, olimpico. No, invece a Torino ricordo, sono anziano, non so se lo ricordi, però quando rubavi gli altri ricordavi dove rubare. Non ci dimentichiamo poi la trotta che si è laureata in Albania, che si è preso la macchina, l'appartamento, a spese nostre e tutte quelle belle cose. Quello ce lo siamo dimenticati, da chi gridava a Roma ladrona, capito? Allora, hai visto la prima volta che tutti hanno aumentato gli stipendi della casa, cazzo il barbiere, cazzo piglia 15.000 euro al mese, cazzo un elettricista arriva a prendere 140.000 euro all'anno, cazzo elettricista, e voi cazzo di fiducia, fiducia, incredibile, queste sono le cose che fanno incassare la gente, capito? Intanto tagliamo legge di chi, tagliamo i vitalizi, bla bla bla bla bla bla, e quindi hanno detto, se il risultato si ci trovano la bocca, metti le porta in Parlamento e metti la fiducia, se veramente, se no siamo qua fuori qua. Ora adesso cazzo non si riusciti a fare, perché non è quello a fare. Adesso in campagna elettorale, ma non ce l'abbiamo fatta, non ce l'ha tempo. È incredibile. Oh, guarda, una cosa impossibile. Facevano schifo prima, adesso fanno ancora più schifo, perché se lo fanno in faccia veramente. Io ci credo poco comunque che la gente abbia capito, secondo me, guarda, te lo do all'80%, ritorna il cavaliere, perché c'è troppa gente che non ci sente, c'è torrente, c'è l'orecchio di tutto, ma soprattutto perché cerca, non vede, si dimentica, è di memoria corta, quindi non vede i fatti. Allora, ma sai qual è il problema? E se ritornerà io mi auguro di no, però gli sarà un po' più difficile governare, perché la Lega è più forte, non è una Lega di voce, la più, capito, è la più trascendente, la più invece Salvini gli ha messo dei paletti, invece Forneo cancellata, si fa che ha 41 anni in contributi di andare in pensione senza limiti di età. sapete anche anzi un idioma, su quello con la ragione, c'è una pecca, se tu porti una persona a lavorare 60 anni, non ho fatto lavoro negli giovani mai. Ma è una legge matematica, una legge matematica. Poi io questa vita argomento non la vedo, perché se ti vedi il giornale vedi che ci stanno morendo gli anziani, quelli di 80 anni, qualcuno di 90. Però stanno morendo anche quelli di 70, ma la sorte. È anche giovane, ma la sorte, di incidenti di malattia. Poi quella struttura è stata che sarà lì, i saldi, diciamo, fra un po', fra tanti anni i saldi scompariranno, variando però. E qua 5.000 in meno quest'anno, gli immigrati, meglio, siamo di meno, siamo meno popolazione, meglio. Almeno cazzo c'è più acqua, c'è più tutto, cazzo, e quindi viviamo meglio, è una fissazione. Cazzo, perché dice, qua gli immigrati, lo ragazzi vai va, se un giovane non fai figlia, se non fa travaglio, tu prova a mettere il collettore di stare bene con il lavoro, di un lavoro tranquillo e serio, perché non sia sempre col pensiero di cazzo le mie a casa perché non riesce a pagare il mutuo. Tu prova una famiglia giovane, mettere il collettore di stare bene e i figli li fanno, capito? Ma li fanno vero, no? Come li fai fare gli zingari, fatti allassati. Ma io avrei candidati. Oh, non mi porta nessuno, perché sono gli arremessi al muro questa gente qua. Capito? Noi siamo un sacco di diritto, siamo stati con i giovani. Capito? La fregatura di questa nazione, che abbiamo dopo di lui, hanno dato troppo potere ai giudici, ai magistrati, a questa gente qua. E quindi è normale, hanno creato una nazione per i delinquenti, perché se tu sei onesto in Italia, o muori di fame o sei un grande coglione, questa è la realtà. Infatti è una nazione praticamente demograficamente di coglione. Allora, ti ricordo quella demente della, come si chiama, della Boldrini, abbiamo bisogno di 400.000 stranieri ogni anno, perché ma devi per fare cosa cazzo devi per fare quando tu sei cazzo, il 12-10% cazzo della popolazione giovane non lavora, cazzo la maggior parte dei giovani, cazzo uno su quattro non lavora, uno su tre non lavora, cosa cazzo vuoi? Tu prima aiuta la tua popolazione e trovi un lavoro e poi se regala, se ne bisogno li prendi, ma noi se non ti stai solo importando povertà e degrado, se tu hai un lavoro a una persona, un ragazzo di verba, che cosa? Spiegalo! No? Niente da fare, lo devo fare. Poi c'è un'incapacità, sono ragione a togliere tutte quelle leggi, perché tanto non vengono rispettate. Cosa ne fai? Ma quando mai? Sicuramente avrai notato che ogni angolo di strada, questi qua, ogni negozio, anche lì a Bretagnera, che è distante, c'è qualcuno che chiede le mosse. Ma quando mai? Ma se tu che vieni da fuori, c'è qualcuno che ti dice vai lì e c'è una panetteria di piazza lì che è mosina, ma che sono è possibile? Ma è vero che se non fatto non vedi più gli ingari, perché ormai il loro posto è stato preso da questi giovinotti, eccetera, eccetera, che stanno lì a chiesa. Adesso se ci fosse un'amministrazione seria e capace, andrebbe un po' a vedersi chiaro su questa cosa, detto, ma scusate, chi ti ha mandato qua? Che ci fai? Ma lo sai che i cittadini pagano per darti a mangiare e per vestirsi? Dove vanno questi soldi? Invece tutto faccio. Sono loro, sono chi c'è gestione questi qua che li manda lì. Io ho fatto prima di Natale, un po' prima di Natale, un esperimento con un mio amico, un sabato mattina. La sera ha detto la macchina a casa, ci facciamo un giro a piedi, e lui mi piace camminare. Perché il giorno prima siamo usciti in bicicletta, però ci facciamo una bella camminata, così lascio io poi uso. Abbiamo fatto la casa mia tutto quanto, poi il ponte di Rosello, siamo entrati al corso, la blabla piazza d'Italia, fino ad arrivare cazzo su via Roma, poi da via Roma siamo usciti, io ho fatto la parallela di via Cavour, sì, via Cavour, tutto quanto, fino ad arrivare, poi sono andate le posti centrali, beh, abbiamo contatto, allora, contatto Eosia 76 persone. io se avessi dato un euro a tutti quanti avrei dato in quel giro lì di un paio d'ore 76 euro. Scusa, ma io ora ho facciato un mal di gola. Scusa per poco. Ma quanti natori fatti sentire che a me mi sta mancando la voce? Su cosa dire? Ma io già lo so che trovava, adesso vado alla Crucca lì, che c'è l'Asia. Ho andata lì, già Marco, sta facendo forza perché non sai già la sua forza, Io adesso lì, vado e l'Asia lì della Crucca. E quello c'è la mia lamparosa. Ma Gianfranco mi trovi al posto, con lei che si rimetta un cavallo, un paio di agilini, quelli ce l'ha lì a portata di mano, proprio viva, no? Di quella tagliata, proprio viva, tagliata tocchi. Guarda, dove sono io ci sono gli altri, anche il nome, quindi la mia via c'ha un nome d'altri. Ehi, però tu sei come me, c'è un paio lì, quindi come ti serve ce l'hai di persona? Ehi, già c'è il posto, solo si mangia l'orso, e forse anche che corrono l'orso, non meglio fare solo stretto. Allora, il cazzo, quello se lo fanno tutto l'orso, come niente, e come c'è le pecore, nulla, capito? Cos'hai piantato, le fave le piantate? Quello non lo so perché non me ne occupo io, ma io il pollice verde non ce l'ho, quindi se ne occupa un mio parente che c'è qua. Però c'era i carciofi, c'erano i cosi lì, sono anche le pietre, la gella, insomma c'è tanta roba, adesso dobbiamo mettere l'ufa e quindi c'è anche il vino. Allora, siccome qua c'è una piccola vignetta, dice lo spazio, la fai sempre buono, la campagna, diceva nonno, c'è dove lavorata, però si dà roba buona, e soprattutto in questi periodi che ti fanno mangiare merda, è meglio sempre tornare all'antico, fare le cose tue, lo so per caso, la campagna ho pianto sempre le cose per casa, capito? Anche bello. Capito, perché sono stato 6 mesi facendo spaghetti con i pomodorini, gli ho piantato 700 piante, gli ho fatto la frutta e le ho portate a casa di lenti, capito? Allora, ogni giorno ne facevo 5-6 kg, ogni giorno, ho fatto 6 mesi mangiando pomodorini. Sì, anche qua mettiamo i pomodori, anche qua ci sono, fanno quelli in bottiglia, capito? Che sono dolci dolci, sì. Si fa un po' di tutto, dai, molto lavoro ci vuole, c'è anche molta acqua. Vabbè, anche io, però io nel frattempo la bolletta di campagna la pago da quello che faccio, perché poi c'è anche la frutta, tu pensa, quest'anno solo le melograni ho fatto 650 euro, solo le melograni, capito? Dei fichi ho fatto 820. Perché non è un bel giorno, si sentono i fichi, ma fichi mai portati, fichi anche 4 metri, quando ho fatto una scala a forbice a 4 metri, poi di culo e naso, e io ho due tipi, la famosa, i fichi, la mattariona, cioè quella sonda che fa grande, e pure la figlia di lui, quella che fa tipo goccia. Lo sai quanto gli ho dato a mio amico della Cosca, a shampoo, di quello lì, chi ti ha meritato e me ne parla molto bene. E invece qua, guarda, ti dico, amico, non so che tu mi bussi, la mia, fatemi bussare un bene, ma un bene fatemi bussare. Io tutto il mio amico in Cosca, tanto viene qua a comprare, di arboreo, giorno così. Quando la roba, mi dà un sacco di pene, mi dà la roba, mi dà di linea, capito. E io pago tutte le spese della campagna e me la faccio anche un bene. Va bene, così ti arrangi. Va bene. Sì, è l'unica cosa che chi lavora si fa un po' stressato, la cosa anche può fare, che penso che sia in pensione. Quindi si può dedicare a tempo pieno a fare quelle cose, ma siamo sempre fuori da una cosa all'altra, Già lo sai, no? Quanto può essere complicato. Lo so, certo, se c'hai anche più lavoro così, chiaramente il tempo perde di me. Però sai cosa diciamo, quando hai tanta roba, tipo frulla che ho preso, mandarina, abbiamo un po' di tutto. Quando tu vedi gli alberi carichi di roba, hai due possibilità. O li fai cadere e vedi questa roba che si marcisce in terra, perché non ti dà mai lontanata, capito? Quando c'è 10-15 alberi di quei pezzi, e 10 alberi pezzi, la trova così. Hai due possibilità, o la fai tutta guastare, o la regali, oppure la fai i soldi. E la seconda è la cosa più difficile, fare i soldi. Raccimo i soldi, ti paghi la bolletta della luce, perché quando si è l'acqua dal posto c'è la pompa sommersa, e ti paghi la luce tutto l'anno, ma te la manca tanto, tutte le spese, il viaggio del tuo giocatore, il sbugliatore, quando vabbè le piante me le faccio io, capito? E quindi hai due possibilità, è un peccato avere questa roba che ci guarda. Non so, noi abbiamo due bei alberi di fico, ma ne fanno, guarda, la tonnellate. Però non la mangia nessuno, cioè, a me piacciono molto, però ultimamente non li posso mangiare, poi insomma è un problema. Quindi la roba c'è. Ah, è così, caro Fabrizio, la campagna è molto bella. L'unico problema è che c'è sono le cornacchie che si mangiano strozzo d'uva, fanno la bacon, la rovina, i pomodori, e quello è un problema. Le cornacchie si mangiano tutto. Io avevo da due anni a questa parte questo problema, prima niente, zero. E allora ho fatto la zicca, avevo dei fali grossi di acqua, no? Io un po' recupero un po' di roba, sempre per la bella dubbi, o devo dire anche di fare le strutture per i pomodori, per i fagiolini. Allora ho fatto, io facevo un po' di giovedì vecchi, mi sono applicato, ho fatto tre spavette a parte, infatti io. Poi un mio amico mi ha regalato due manichini quelli da negozio di abbigliamento, li ho vestiti, gli ho fatto la struttura per attaccare il punto a questo palo alto 7 metri, ho messo con la mano un tubo da un metro e mezzo del fissato nel terreno e ne ho lasciato mezzo metro fuori, ho filato il coso, ho messo questo manichino che è mezzo metro più alto degli altri, credimi, non ha toccato più un fico, uno. Ma anche a te solo il manichino, a questo uomo? Sì, più o meno sì, dai. Sì, più o meno la stessa uomo, capito? Io li ho vestiti, fatti bene, e poi gli ho fatto una gaffa e l'ho attaccato lì alla punta del palo, poi c'erano 4 metri, una cosa del genere. Poi l'abbiamo sollevato, infilato in questo palo che ho infilato nel terreno, ne ho messo due, più o meno di legno nel terreno. E quindi caso questo manichino è mezzo più alto degli alberi, quindi lui deve essere dall'altro, deve questa cosa, tra l'altro è la nostra vicina. Vede, quando ho fatto questa storia non mi ha più toccato un fico. Sono stato su 10, sì, ho tutti beccati. Però è anche intelligente, dopo un po' se ne accorge che non si muove, che è un oggetto statico, quindi fa l'attacco di nuovo. No, a me hanno detto una cosa sempre antica, che bisogna, quando c'è tutto il gruppo, farne fuori una e appenderla. E allora non so che ci sono più, perché sanno che si potrebbero morire. Guarda, l'ho fatto due volte con la signoria, una cazzata, cioè la pandemia non ha funzionato. Io l'ho appesa alla tonaca, quel palo di 4 metri, nulla, andavo così, capito? Era una cazzata, a me non ha funzionato. Però il manichino è vestito, poi gli metto delle bottiglie in plastica legate, perché la bottiglia in plastica quando c'è il sole riflette, capito? Pezzi di specchio, gambero, capito? Tutte le cose si muovono e riflettono il sole, capito? Perché se lo metti il sole il manichino, come tu giù, rimane fermo, allora invece il manichino gli metto su quei cose, gli metto dei pezzi di specchio, gambero, non lo so, gli ho fatto le strutture, ma poi ho messo delle bottiglie in plastica, lattine, capito? In modo che si muovano, poi io sono in alto lì. E quindi muovendosi, riflettendo il sole alla bottiglia, gli ha problemi. Perché io da allora non ho toccato, non ho trovato più un fico toccato, uno, avanti, andata lì. Ascolto io, se però se ne abuso uguale. Se la voce te ne rassegna, le vie riservate. Io lo so. Capito, Gianfra. Io ho fatto questa qua, ma io... Perché prima io li mettevo passi, i manichini, e ogni tanto le chiamate te la dico io. Tu invece solleva le grazie degli altri, invece che c'è la struttura, devi solo sorgere il palo, le grazie degli altri. Io ce l'avevo, avevo un sacco di pali, quelli di acqua. Ho fatto questa struttura e ho messo nel frutto 2 e poi uno su della parte dove c'è gli altri due alberi di pesche con l'orto, capito? Da quando ho fatto questa struttura d'acqua non ho trovato più un fico beccato. Vuol dire che la se funziona. Vabbè, ora anch'io mi devo allontanare. Ci sentiamo, Fabri. Grazie per il questo. E fatti sentire così, insomma, c'è un po' più di gente. Tanto che là, dopo sai, non c'è più nessuno, oramai è tutto un disarmo. Ci vediamo alle vecchie passioni giovanili. Ma io ascolto quasi ogni sera, ogni sera io sono quella francese che accede, ascolto qua sulle T3. Il PMR, sono poi tre fasi, vabbè, fammi bene, e ci sentiamo alla prossima giornata. Adesso come mi ascolti di segnale, Gianfra? Qua che non c'è l'effetto tipico degli altri apparati, ovvero eccetera, sei a 9, come in AM, quindi S9. Ok, benissimo. Vabbè, ci sentiamo. Stammi bene. Avanti, Natalia, per i saluti. Ciao, Prusilla, salutone, alle prossime. Fatti sentire, Fabri. Ah, io sono sempre in ascolto, ripeto, io vi ascolto la sera così. Capito, dove faccio questa cosa qua. Vabbè, là, già ci sentiamo, quindi se tu ti lascio a riposarti o Natalia, che se ne approfitto esco. Moretta, ci sentiamo, la ciao Gianfra, ci sentiamo alle prossime. Sì, vabbè. Se incontri quello lì, dille un altro paio, dille, c'è anche lo yacht lì, praticamente è esagerato per 15 metri, da. Così almeno esco io. Allora, adesso se lo vedo, glielo riferirò, capito? Vabbè, là, ci sentiamo già fra le prossime. Così magari pensa qualche cosa e dice, ma non c'è il numero di telefono, così almeno se ne mette una telefonata, chiamo per questo o per quello. Mi ci chiamo quello che vuoi, lo farebbe, guarda, sei giusto l'amo. Ciao Fabri, buona serata. Ehi, ciao, ciao le prossime. Ciao Natalia, mi raccomando, stai attento alla palla di Cuba, ciao. Ciao, ciao Gianfra, alle prossime. Non ci stanno bene prima di metterlo. Ciao, ciao.